Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. MDP può fare ciò che vuole, ma i voti sono delle persone, sono dei cittadini, quindi a me interessa che i cittadini votino il nostro candidato ad Ostia. Il resto, partiti politici, soggetti nuovi all'interno del Parlamento, per me lasciano il tempo che trovano. E questa, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, è il commento non nettissimo che fa di chiusura Roberto Fico del Movimento 5 Stelle nei confronti di MDP, perché dopo, diciamo, gli ammiccamenti, gli inviti, le aperture della Lega nei confronti del Movimento 5 Stelle per possibili alleanze in vista delle elezioni politiche, anche MDP cerca delle convergenze. Per ora c'è questa risposta, anche se non sembra una chiusura definitiva. Ne parleremo di politica naturalmente questa sera, perché ci sono anche le forti tensioni tra PD e Grasso, da quando Grasso ha lasciato il gruppo del PD al Senato, e poi di molte altre cose. Ci occuperemo anche di questo nuovo caso di un sasso piombato sul parabrezza, lanciato sul parabrezza di una macchina, che ha fatto una vittima, e ritorna questo incubo di questi criminali veramente senza un minimo di coscienza. Parleremo di dati che molti ignorano, perché sembra che fosse una cosa del passato, invece evidentemente è ancora molto presente. E poi c'è la partita della nazionale, importantissima, contro la Svezia, partita di andata, qualificazioni mondiali del 2018. Intanto devo dirvi, piccola parentesi, che sono ancora più contenta del solito di trovarmi con voi, visto che sono viva per miracolo dopo un incidente in moto questo tardo pomeriggio, veramente un incidente assurdo in cui io non c'entro nulla. E comunque, insomma, quindi se mi sentite informissimo, ogni tanto farò un grosso respiro, è perché sono vagamente acciaccata. Ma a parte questa piccola parentesi autobiografica, direi di partire, prima di questi approfondimenti, subito con il riassunto della giornata. Politica italiana, scontro tra il presidente del Senato Grasso e il PD. Intanto MDP penserebbe a una possibile alleanza con i 5 Stelle. Ostia, per il ballottaggio del 19 novembre convocato il comitato di sicurezza con la procura antimafia, e dopo l'aggressione ai giornalisti domani ci sarà la manifestazione contro le violenze. Brexit, adesso c'è la data per il divorzio, la Gran Bretagna sarà fuori dall'Unione Europea il 29 marzo 2019, così dice la prima ministra Theresa May. Francia, Tolosa, un uomo travolge dei studenti cinesi con la sua auto, 3 feriti, 2 gravi, l'arrestato ha detto agli agenti di essere in missione. Gli stupri di Rimini, condannato a 16 anni Butungu, il 20enne congolese accusato di aver stuprato, rapinato e picchiato sulla spiaggia di Miramare ad agosto una coppia di polacchi e una trans peruviana. Calcio, per le qualificazioni mondiali 2018, in campo a Stoccolma la prima delle due sfide dell'Italia con la Svezia. Oh, vi ricordo naturalmente che per i vostri commenti, le vostre riflessioni sui fatti della giornata, sulle notizie principali di cui vi parlerò tra poco con gli ospiti, che già comincio adesso ad elencarvi, pagina Facebook di Effetto Notte per voi, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Anche per esempio su questa possibilità che effettivamente MDP possa trovare delle convergenze col Movimento 5 Stelle. Ma prima di tutto il nostro Dario Ricci ci dice come è iniziata questa partita Svezia-Italia. Dario? Sì, buonasera Roberta, siamo al 20° di gioco alla Friends Arena di Solna, risultato ancora sullo 0-0, inizio scoppiettante da parte dei padroni di casa degli svedesi, pressing asfissiante. Dopo 30 secondi Berg, il centravanti, si è fatto ammonire per un fallo su Bonucci, ma al quinto minuto la migliore occasione da gol finora della gara l'ha avuta proprio l'Italia col cross da sinistra di Darmian, che sostituisce l'infortunato Spinazzola, e l'altra riserva di lusso, Belotti, che ha preso il posto, lo ricordiamo, di Zaza, a colpire di testa e a mandare fuori di un soffio veramente dalla porta svedese. Al settimo il destro dal limite di Toivonen, finito al lato della porta di Buffon, quindi un'Italia che piano piano ha riconquistato campo dopo il veemente avvio svedese. 0-0 finora al 20° di gioco tra Svezia e Italia. Allora tra poco, caro Dario Ricci, man mano ci aggiornerà, intanto noi rimaniamo all'estero, ma per altri motivi, per parlare di Brexit, perché ora sappiamo quando si farà. Il conto alla rovescia è cominciato, con all'orizzonte una data certa e ora anche categorica. La Gran Bretagna si staccherà ufficialmente dall'Unione Europea il 29 marzo del 2019, allo scoccare della mezzanotte, ora di Bruxelles. L'orario del problematico divorzio è regolato dunque sul fuso orario europeo, più che dal Big Ben, che rintoccherà il compimento della Brexit alle 23 britanniche. Il primo ministro conservatore, Theresa May, ha avvertito i pro-europeisti del suo partito che ogni tentativo di bloccare la Brexit non sarà tollerato. Per questo, la May ha anche inserito la data del 29 marzo in un emendamento alla legge quadro sulla Brexit che sarà votato la prossima settimana. Il tempo stringe e la pressione sale. Tra l'inconcludenza di negoziati che, partiti il 19 giugno scorso, sono arrivati oggi al sesto round senza fare chiarezza sui diritti dei cittadini europei, la questione del confine nordirlandese e soprattutto sull'oneroso costo del divorzio. E da Bruxelles arriva ora l'ultimatum del capo negoziatore Michel Barnier. La Gran Bretagna ha 2 settimane di tempo per chiarire quanto è disposta a pagare per lasciare l'Unione Europea prima della discussione sui futuri accordi commerciali prevista per dicembre. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. E dalla Gran Bretagna alla Francia, l'uomo che alla guida di una Clio si è lanciato oggi a Blagnac, vicino Tolosa, su un gruppo di studenti Ferendone 3, si chiama Abdellah. Secondo fonti degli inquirenti ha 28 anni e, come dicono alcune testimonianze citate dalla TV francese, agli agenti che lo hanno arrestato senza che opponesse resistenza ha detto fra l'altro di essere in missione. Per il momento però non si indaga per terrorismo. E ora invece in Italia, sul caso di Ostia, il 10° municipio di Roma, dove domani si svolgerà una manifestazione contro la mafia e le violenze, chiesta la convalida del fermo di Roberto Spada, l'aggressore del giornalista Rai e del suo cameraman, e crescono intanto le preoccupazioni per il ballottaggio di domenica 19 novembre. Un ballottaggio sicuro e soprattutto credibile. Il prefetto di Roma convoca per il 14 novembre ad Ostia il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, alla presenza della sindaca di Roma Virginia Raggi e dei vertici delle forze dell'ordine e della procura antimafia. Scopo è modulare il controllo del territorio in vista dei ballottaggi di domenica 19. Intanto la politica si mobilita contro la criminalità organizzata. Così Matteo Salvini della Lega. Sono contento che finalmente ci sia un segnale di esistenza in vita dello Stato. Se spacchi il naso a uno prendendo la testata e bastonate, va in galera. Certi voti io non li prendo, né a Ostia, né in Sicilia, né a Milano. Prevista nel primo pomeriggio la manifestazione contro la violenza delle mafie, parteciperanno CGIL, CISL, UIL, ma anche il Movimento 5 Stelle, con Alessandro Di Battista, di parere diverso Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, per la quale il voto dei ballottaggi è un referendum sulla Raggi, e anche dal PD si fa notare la faccia tosta del Movimento 5 Stelle. Dalla sinistra invece continua l'endorsement del candidato 5 Stelle ad Ostia. Stefano Fassina confessa che voterebbe i grillini. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Dovrebbe svolgersi domattina nel carcere di Regina Coeli l'interrogatorio di convalida del fermo di Roberto Spada. I PM romani che hanno disposto il suo arresto per l'aggressione alla Troupe Rai, citando le dichiarazioni di alcuni pentiti, lo descrivono come un soggetto che comanda e che può dare ordini all'interno del clan guidato da suo fratello. Chi ha assistito alla nostra aggressione ci diceva vista bene, racconta intanto il giornalista Daniele Piervincenzi a 24 Mattino. Dopo che ci hanno picchiato, io rivedevo lì sui balconi e si ritirava. E noi che chiedevamo aiuto e quelli ci dicevano ti sta bene, non tornare più a Piazza Gasparri. Cioè un mondo parallelo, sommerso ma spaventoso. Per quanto mi riguarda spaventoso lo dico da romano. In attesa del corteo di domani, intanto questa mattina a Ostia, un centinaio di giornalisti e videoreporter ha partecipato al sit-in di solidarietà nei confronti dei colleghi aggrediti, che si è svolto proprio di fronte alla palestra di Spada. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso la politica, nella quale domina lo scontro nel centrosinistra. Renzi risponde al presidente del Senato Grasso sulla sua uscita del PD, dice sono molto impegnato, dice Renzi, a riflettere sui contenuti, a non fare polemiche con nessuno. Ringrazio Grasso perché ha dichiarato ammissibile l'emendamento per rendere facoltativo accompagnare i bambini a scuola. A polemica rispondo con un ringraziamento, dice ancora Renzi, senza aprire ulteriori elementi di tensione. Più duro decisamente il commento di Rosato, che chiede a Grasso, nel suo ruolo istituzionale, di non entrare a gamba tesa nelle questioni del PD. Intanto sulle banche il Partito Democratico rassicura, dice l'obiettivo della nostra battaglia non è Draghi. Poi approfondiremo e cercheremo anche di capire in che senso tra poco. E poi il tema delle pensioni. Il presidente dell'INPS è tornato a parlare dell'adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita, lanciando avvertimenti sulla ricaduta relativa all'occupazione. A Arriva ancora un nuovo allarme sul calcolo dell'età per le pensioni, questa volta dal presidente dell'INPS, Tito Boeri, che ammonisce: l'adeguamento automatico dell'età pensionabile alla speranza di vita non può essere bloccato, altrimenti si mina l'occupazione. E così Boeri spiega il punto durante un evento sulle PMI organizzato dal CERVED. In un sistema in cui le pensioni attuali vengono pagate dagli attuali lavoratori, sottolinea, se non adeguiamo l'età pensionabile alla speranza di vita, aumentiamo il carico fiscale e contributivo che pesa sui lavoratori, quindi distruggiamo l'occupazione. Certo, secondo Boeri sarebbe comunque giusto che si decidesse adesso una quota di lavoratori da esentare dallo scatto che ci sarà nel 2019 a 67 anni, lasciando poi il compito e il tempo alla commissione ad hoc proposta dal governo ad oggi per 15 categorie di fare dei distinguo ed identificare quelle che hanno una speranza di vita più breve. Commissione che però deve avere un ruolo, dice Boeri, è importante che tutte le decisioni non vengano prese prima che la commissione venga creata. Poi una stoccata alle pensioni più alte, sono persone con speranza di vita più lunga e quindi una redistribuzione da un pensionato ricco a quello più povero avrebbe un senso. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E adesso ritorniamo all'estero per parlare di Stati Uniti, che considerano il premier libanese Saad Hariri un partner solido. Il commento arriva dal ministro Rex Tillerson, che è intervenuto ingiungendo alcuni paesi di non utilizzare il Libano per conflitti per procura, poiché dice questo commento appunto è stato fatto a proposito del leader libanese che sarebbe agli arresti in Arabia Saudita, però è ancora un mistero. Ma sentiamo su questo il commento di Alberto Negri. La crisi tra Arabia Saudita e Libano, oltre che tingersi di giallo sulla sorte del premier dimissionario Saad Hariri a Riyadh, sta diventando il nuovo tormentone medio orientale. Di che cosa si tratta? Con la guerra in Siria e l'intervento della Russia a fianco di Bashar Assad, il fronte sunnita è stato sonoramente sconfitto e ora teme che si estenda l'influenza dell'Iran, alleato di ferro di Damasco. Ma la colpa non è del regime sciita degli Ayatollah, bensì degli errori clamorosi di valutazione compiuti dai suoi avversari come l'Arabia Saudita, che ha sostenuto l'opposizione jihadista in Siria e si è impantanata in guerra in Yemen contro gli Houthi, alleati di Teheran. In questa crisi libanese l'Arabia Saudita ha coinvolto i suoi partner del Golfo come Emirati, Kuwait e Bahrain, convinti a evacuare i loro cittadini da Beirut. Non solo. I sauditi premono su Tel Aviv perché apre un conflitto con gli Hezbollah, le milizie sciite filo-iraniane, comune nemico sia dei sauditi che degli israeliani, oltre che degli Stati Uniti. Il principe ereditario Mohammed bin Salman, dopo aver fatto fuori con le purghe i suoi concorrenti, adesso cerca con un fronte esterno dove sfogare le tensioni interne e coprire i fallimenti della strategia di Riyadh in Siria e in Yemen per evitare un nuovo conflitto Stati Uniti e Russia, che ormai in Siria vivono in una sorta di condominio militare, dovrebbero intervenire a frenare i rispettivi alleati. Il problema è che l'atteso vertice tra Trump e Putin in Vietnam non c'è stato e questo complica la situazione. Un'altra guerra in Medio Oriente, ovvero le porte di casa, sarebbe un disastro per la stabilità del Mediterraneo. E ora in Italia, con la cronaca, questo fatto gravissimo: una donna di 62 anni è morta a causa di un malore dopo che la macchina su cui viaggiava con altre 4 persone è stata centrata da un sasso di calcestruzzo lanciato da sconosciuti da un terrapieno sulla strada provinciale 121 nel territorio di Cassano d'Adda, nel milanese. Nessuno è rimasto ferito nell'impatto, ma la donna, a causa di questo forte shock, poi ha avuto un arresto cardiaco. Poi ne parleremo, appunto, perché sembravano terribili episodi e ormai archiviati nel passato, invece sentirete dei dati che non è così. Restiamo sulla cronaca con gli stupri di Rimini, 16 anni di reclusione più di quanto chiesto dalla Procura della Repubblica e la condanna con rito abbreviato per l'unico maggiorenne del branco, Gerlin Butungo, il ventenne congolese accusato di aver stuprato, rapinato e picchiato sulla spiaggia di Miramare la notte del 26 agosto scorso una coppia di polacchi e una trans peruviana. E poi per chiudere parliamo anche della giornata di sciopero che è stata oggi, sciopero generale dei trasporti in tutta Italia. Disagi maggiori ci sono stati a Roma. A Milano lo sciopero è ripreso alle 18, anche se per lo più la metro è andata e durerà fino alla fine del servizio. Tra poco ci aggiorneremo sulla partita che è in corso, Svezia-Italia, e poi, dopo la viabilità, tutti gli approfondimenti con gli ospiti. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Ringrazio tutti messaggi di affetto che stanno arrivando, visto che sono qui, dicevo, un po' per miracolo, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. Intanto arrivano anche i commenti su questa possibile convergenza, alleanza, avvicinamento, insomma, tra MDP e Movimento 5 Stelle. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E ora vi ricordo le più importanti e poi cominciamo un po' a entrare nel cuore di alcune di queste. Roberta Giordano sempre con voi, vi ricordo appunto pagina Facebook per i vostri commenti. Vedo per esempio Sergio che scrive: la più perfida definizione di Piero Grasso, che Pietro Grasso, presidente del Senato e leader in pectore dell'eventuale sinistra elettorale, la diede una volta Marcello Dell'Utri, che disse: me lo ricordo da ragazzo quando giocava a pallone nella Bacigalupo, non si sporcava mai e anche dal campo più sporco usciva sempre pulito, un'attitudine che gli è rimasta. Vabbè, può essere anche una qualità, adesso non so, questo è il punto di vista di Sergio e il racconto di Dell'Utri, un messaggio lunghissimo, posso leggere solo questa sintesi. Gli altri a tra poco, intanto vi ricordo, se non avete acceso puntualmente, le notizie più importanti della giornata. La prima ministra May, prima ministra della Gran Bretagna, annuncia la data in cui ci sarà la Brexit, cioè l'addio di Londra dall'Unione Europea, sarà il 29 marzo 2019. E poi scontro frontale per quanto riguarda la politica e il centrosinistra tra Grasso e PD, da lui toni sprezzanti. La minoranza intanto del Partito Democratico prepara un ordine del giorno e ci sarebbe questo possibile avvicinamento tra MDP e Movimento 5 Stelle. Ostia, per il ballottaggio scende in campo la procura e domani ci sarà intanto la manifestazione contro le violenze, mentre emergerebbe che Roberto Spada, che è stato arrestato ieri appunto per l'aggressione alla truppa di giornalisti, comanda e ordina nel sodalizio a Ostia, quindi diciamo dinamiche mafiose ci sarebbero. E poi abbiamo detto che questa vicenda di cronaca con auto contro studenti in Francia, ma non è terrorismo, l'autista è uno squilibrato non radicalizzato ma noto. E invece per quanto riguarda l'Italia, un sasso tirato sul parabrezza di una macchina che passava lungo una strada provinciale milanese, una donna morta per lo shock. Oh, sentiamo subito Dario Ricci, se mi pare che nulla si muova ancora, Dario, dal risultato di prima, 0-0. Giusto Roberta, 34esimo di gioco a Solna, ancora 0-0 tra Svezia e Italia, in tribuna anche uno che l'Italia la conosce bene, cioè Zlatan Ibrahimovic. Da segnalare rispetto all'ultimo collegamento, l'ammonizione ingenua di Verratti per un fallo al limite dell'area svedese, particolarmente grave perché il giocatore è diffidato, quindi il centrocampista del Paris Saint-Germain verrà squalificato e non ci sarà sicuramente nella gara di ritorno lunedì a San Siro qui a Milano. Tra l'altro con l'occasione ricordo che faremo una puntata speciale proprio di Effetto Notte Gol, chiamiamolo così. Fai bene così a ricordarlo, bravo. Sì. Dalle 21 con collegamenti dallo stadio, ospiti, anche Carlo Genta che ti sarà al fianco. Eppure gli ascoltatori, ascoltatrici, apposta, ascoltatori quindi, diranno caldate, loro. Preparate il dito per fare il numero e entrare in trasmissione. In partita un po' meglio dovrebbe entrare questa Italia, Roberta, che sta lasciando a lungo l'iniziativa agli svedesi, pericolosi al 25esimo con una bella combinazione conclusa con un destro a giro alto di poco da Forsberg, il più talentuoso centrocampista di rifinitura del Lipsia. Comunque 35esimo di gioco, ancora 0-0 a Solna tra Svezia e Italia. Grazie Dario Ricci, poi ovviamente di tanto in tanto capiremo se il risultato cambia oppure no. Nel frattempo c'è l'ascoltatrice Clotilde, come molti altri, che sta mandando auguri, affetto eccetera, vi ringrazio tutti, leggo ogni messaggio, uno per uno, per conto mio, chiede come è andata a finire la storia dei carabinieri indagati per la violenza nei confronti di due ragazze a Firenze. Allora la notizia, l'aggiornamento è che è stato rinviato al 22 novembre il previsto incidente probatorio, no? Nell'ambito dell'indagine per acquisire le testimonianze delle due studentesse americane che hanno denunciato appunto di essere state violentate lo scorso 7 settembre, quindi è rinviato al 22 novembre. Oggi si è tenuta un'udienza preliminare davanti al GIP, questo per ora le notizie in più che si hanno. Ora invece di notizie ce ne sono di politiche e le affronteremo come sempre con la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Barbara. Buonasera. Buonasera a te. Allora, politica italiana. Intanto abbiamo visto subito queste, già dei titoli, le tensioni forti tra Grasso e il Partito Democratico, quindi presidente del Senato Grasso, che ha lasciato, dopo l'approvazione del Rosatellum, il gruppo del PD. E poi c'è ancora i fatti di Ostia, Banca Italia, e poi questo, così per il momento, come possiamo dire, o paventato o millantato, semplicemente menzionato, avvicinamento, possibile avvicinamento tra MDP e Movimento 5 Stelle. Ne parleremo. Io direi però di iniziare con queste tensioni che riguardano Grasso e il Partito Democratico, Barbara, no? Facendo sentire che cosa ha detto Grasso, che poi ha scatenato, a parte la sua uscita, ma ulteriormente con queste affermazioni, queste tensioni col Partito Democratico. Sentiamo. Non so se sono uscito dal PD oppure se non c'è più il PD, quello che... Quindi dice, non so se sono io che sono uscito dal PD o il PD che non è più quello che era, quindi è come se avesse tradito la sua missione, la sua natura, secondo Grasso, e quindi a questo punto dice, io me ne vado. Da un po' si vociferava che fosse, che sarebbe, poteva essere il leader di MDP, quindi dei fuoriusciti dal Partito Democratico, e in più, boh, si stanno creando degli avvicinamenti con il Movimento 5 Stelle. È una domanda che lascio sospesa, Barbara. Intanto ti leggo i moltissimi messaggi che sono arrivati su questo argomento. E alcuni, Cristiano che dice, forse un filo d'intesa con Grasso come filtro e garante si potrebbe paventare, almeno un asse di confronto aperto, graduale, attento. Sergio scrive, secondo me è impossibile, anche perché se attualmente viene osannato Grasso per aver lasciato il PD, in passato non è certamente stato un santo, ma non so bene a cosa si riferisca. Comunque, Maria, Torino, i 5 Stelle sono un disastro totale, forse alleandosi con qualcun altro impareranno a governare. Luciano, la vedo dura la filosofia dei 5 Stelle di non allearsi con nessuno, infatti mi pare proprio che stiano continuando a ribadire questa cosa, insomma, quasi a livello ossessivo. Sentiamo Fico, Roberto Fico, su questo. MDP può fare ciò che vuole, ma i voti sono delle persone, sono dei cittadini, quindi a me interessa che i cittadini votino il nostro candidato ad Ostia. Il resto, partiti politici, soggetti nuovi all'interno del Parlamento, per me lasciano il tempo che trovano. Allora, ti ho messo come al solito un po' tanta carne al fuoco, Barbara. Cosa vuoi cominciare? Dal PD? Dalla fine, perché poi si riallaccia tutto all'inizio. Ma senti, non mi sembra una chiusura tutta? Fico è già abbastanza, in genere, abbastanza moderato quando... Non mi sembrava una chiusura proprio definitiva, te? Beh, intanto Fico fa parte di quella che è definita l'ala sinistra del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle si deve barcamenare tra un'ala più, come dire, moderata e un'ala più a sinistra. Ma l'alleanza è nei fatti, nel senso che abbiamo già visto, per esempio, che gli elettori del centro-sinistra in Sicilia hanno votato il candidato Grillino ritenendo il loro candidato non vincente, e quindi hanno, come dire, attratti dal voto utile, si sono riversati sul candidato Grillino, quindi hanno fatto una scelta già autonomamente. Diciamo che queste elezioni di Ostia potrebbero essere un'ulteriore conferma, qualora, e già si vedrà nella manifestazione che si terrà domani ad Ostia, dove parteciperà la Raggi, ma parteciperà anche una lista civica capitanata da un ex parroco, però ha ricevuto il consenso anche di MDP ad Ostia, cioè hanno detto di votare questa lista, e questa lista domani sarà in piazza ad Ostia assieme alla Raggi. E anche la stessa Raggi ha cambiato atteggiamento, cioè noi abbiamo visto che all'inizio del suo mandato da sindaco, insomma, le sue frequentazioni a partire da Marra erano più orientate, diciamo, sulla parte destra, mentre recentemente non partecipò, e fu criticata per questo, alla cerimonia sulle Fosse Ardeatine. Mentre recentemente abbiamo visto che si è spostata più a sinistra, da Bella Ciao cantata alla chiusura della sede di Fratelli d'Italia, la sede storica del Movimento Sociale Italiano al Colle Oppio, e insomma, e adesso questo noi antifascisti. sì. Quindi, allora, insomma, forse perché è vero allora che non esiste più né la destra né la sinistra, come si dice da tempo, io non sono convinta di questo, però il fatto, oppure il Movimento 5 Stelle è davvero così trasversale che a seconda di quello che ritiene giusto in quel momento. Comunque, a questo proposito, Barbara, su Ostia, sul sostegno, per il 19 ci sarà il ballottaggio, abbiamo detto già nel racconto della giornata che in vista di quel ballottaggio del 19 novembre il prefetto di Roma ha convocato a Ostia il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza dopo quello che è successo, no, con Roberto Spada arrestato, con le intimidazioni eccetera. Si cercherà, e con una forza politica che si dice in qualche modo legata al clan Spada, quindi Casa Pound, che ha avuto bene il 9%, no, nel primo turno di questa elezione a Ostia. Beh, c'è Fassina di Sinistra Italiana che dice: sabato sarò in piazza, e Sinistra Italiana, se dovessi proprio votare a Ostia in quel ballottaggio, voterei 5 Stelle, ma non si può essere, perché non si può essere, dice, equidistanti come il PD che dice: ah, per noi è uguale, no, dice no, non è la stessa cosa Movimento 5 Stelle o destra. Mentre invece c'è Rosato che dice una cosa piuttosto pesante, insomma, dice che non c'è differenza tra Movimento 5 Stelle e destra, ma la cosa pesante è questa, che parla di contiguità tra la famiglia Spada e il Movimento 5 Stelle. Sentiamo cosa dice Rosato a questo proposito. Sul presidente Grasso resto stupito per la sua scesa in campo, proprio per il ruolo istituzionale che ricopre, in maniera così diretta. Possiamo chiedere una semplice non ingerenza, infatti, che se il presidente Grasso ritiene di non appartenere più al nostro partito, questo è rispettabile, ma non è sostenibile e non è difendibile il fatto che intervenga a gamba tesa nella vita di un altro partito un rappresentante delle istituzioni così importante. Vabbè, questo è il commento durissimo di Rosato, poi ci ritorniamo. Barbara, invece, a proposito proprio di Ostia, di chi sostenere al ballottaggio, dicevo, mentre Fassina di Sinistra Italiana ha detto: ma se proprio devo scegliere tra i due, scelgo Movimento 5 Stelle, perché non è la stessa cosa, come dice il PD. Invece Rosato dice questo: a Ostia il Movimento 5 Stelle e il centrodestra parlano la stessa lingua. Aggiungo che il Movimento 5 Stelle a Ostia, come nel resto della città di Roma, si sta dimostrando incapace di governare. Quindi la nostra astensione è provocata dalla possibilità che scegliere tra i due schieramenti risulta assolutamente inutile. Ma dice anche questa cosa a Radio Radicale. Barbara. Scusa. No, stavo tu dall'altro sei di Ostia, no? Sì, io sono di Ostia e devo dire che probabilmente Rosato si riferisce alla famosa foto proprio di Roberto Spada che insomma aveva fatto un post su Facebook, non ricordo su quale social, in cui diceva: ma i 5 Stelle, io voterei 5 Stelle, insomma. È evidente che, allora, io vabbè, questo non vuol dire comunque, sì, no, infatti, aver stretto la mano a tutti, questo, cioè che le associazioni malavitose si buttano sempre sul carro del vincitore, tendono comunque a buttarsi sul carro del vincitore, e quindi in quel momento si capiva che il Movimento 5 Stelle a Roma sarebbe prevalso, e quindi l'endorsement, diciamo, degli Spada in favore dei 5 Stelle potevano essere anche un tentativo di abboccamento, mettiamola così. Detto questo, però, è evidente che una cosa voglio dire invece, che non c'è dubbio che scarsa esperienza da parte dei 5 Stelle, come abbiamo visto anche da parte del sindaco di Roma, rischia di poter rischia di farli contaminare, diciamo, anche da situazioni non proprio limpide, perché appunto si trovano a gestire delle situazioni complesse in cui magari gli manca anche un retroterra, come dire, storico-culturale rispetto a quello che si trovano davanti a dover amministrare. Questo rischio c'è, ma c'è per qualunque forza politica nuova che si presenta per le prime volte a governare una città piuttosto che una regione o il paese addirittura. E quindi questo rischio effettivamente c'è. Sì, io sono di Ostia e devo dire che io sono in ambascio, cioè io non so chi votare, non ho fiducia né nei 5 Stelle né nel centrodestra, non avevo fiducia neanche nel Partito Democratico, quindi sono una dei tanti, cioè del 73% degli elettori che sinceramente più che il timore in questo momento, cioè il problema della mafia, cioè della criminalità, è legato anche al fatto di una incapacità da parte della politica, no? Di fare il suo mestiere, cioè di amministrare, di portare soprattutto dei politici validi e degli amministratori capaci. E questo, diciamo, non solo ad Ossia purtroppo, ma certamente laddove si verificano delle contiguità o comunque dove l'infiltrazione malavitosa è molto pesante, il rischio è ancora maggiore. Barbara, sempre sulla possibile alleanza MDP Movimento 5 Stelle, Luciano scrive: la vedo dura, la filosofia dei 5 Stelle è non allearsi con nessuno. Poi Stefano: sono di sinistra, voterò 5 Stelle proprio perché non accetteranno alcun apparentamento con destra e pseudosinistra. Se si apparentano invece di guadagnare voti, mi sa che ne perdono la metà. Sì, però posso... Sì, certo. Sono talmente tanti. La cosa che devono capire i nostri ascoltatori e noi tutti, noi cittadini, e io continuo a ripeterla, noi siamo in un sistema proporzionale. Quindi è inutile che continuiamo a ripetere questa cosa che nessuno si allea. L'abboccamento in questo caso da parte del partito di Bersani e di D'Alema al Movimento 5 Stelle non è in chiave, come dire, di elezioni, cioè ci presentiamo con una lista comune, ci coalizziamo, perché questi 5 Stelle non lo vorranno mai, perché ovviamente non farebbe altro che portargli via voti, non aggiungerne, ma portargliene via, perché appunto è un partito trasversale. Ma pensiamo che cosa potrebbe accadere all'indomani del voto, qualora il Movimento 5 Stelle risultasse il primo partito, ma non avrebbe certamente il 50% più uno per governare. E siamo sempre col problema delle coalizioni. E quindi a chi si rivolgerà il Movimento 5 Stelle? Fino a qualche mese fa si diceva che poteva esserci un'alleanza populista con la Lega. Grillo ha capito che questa cosa era pericolosa, nel senso che effettivamente questa contiguità con la Lega favoriva la Lega, ma certamente non il Movimento 5 Stelle, e ha cominciato a sparare sulla Lega. Adesso c'è questo tentativo da parte del Movimento di Bersani, che è anche dovuto alla difficoltà del Movimento di Bersani di accreditarsi, perché ricordiamo che questa legge elettorale è sì proporzionale, ma prevede dei collegi uninominali, maggioritari, quindi dove lì si vince chi ha un voto in più, che sono 232, se non ricordo male, alla Camera, e mi sembra 115 al Senato. Però è evidente anche in questo caso che la difficoltà nasce dalla difficoltà stessa, scusate la ripetizione di parole, delle alleanze nel centrosinistra, cioè il Movimento di Bersani, e probabilmente tra poco lo chiameremo il Movimento di Grasso, no? Guidato da Grasso, magari anche con Pisapia, riuscirà sicuramente nelle loro intenzioni, ma penso sia probabile, a superare lo sbarramento del 3%, ma difficilmente potrà aggiudicarsi dei collegi uninominali. Per di più anche il PD avrà le difficoltà, come abbiamo visto in Sicilia. Barbara, dobbiamo purtroppo lasciarci, andiamo avanti tutta la sera. C'è comunque la minoranza PD con Orlando in testa, che sta cercando di creare dei ponti e anche di dire che nella direzione di lunedì il PD deve svoltare sui temi sociali, basta con le questioni di alleanze, di leadership eccetera. Staremo a vedere, quindi ci riaggiorniamo lì. Ti chiedo solo, Renzi ieri era a cena insieme a Franceschini da Riccardo Muti, direttore d'orchestra. Secondo te si voleva allenare, farsi un po' dare dei segreti su come fare il direttore d'orchestra anche lui, un po' meglio magari di come... Ma il problema di Renzi è che come direttore d'orchestra mi sembra poco efficace, nel senso che lui ha una rivolta da parte della sua orchestra. Cioè, l'orchestra trombe, si rivolta contro il direttore. Violoncelli, eccetera. Ricorda un film di Fellini, Prova d'orchestra di tanti anni fa, in cui c'era un ammutinamento da parte degli orchestrali. Colta citazione, molto bene. Grazie Barbara Fiammelli, buon fine settimana e alla prossima settimana. Adesso ci fermiamo, prendiamo questa piccola pausa. Voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Grazie a tutti, uno più bello dell'altro per la cosa autobiografica che ho detto all'inizio, e invece anche SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, e siete qui e ascoltate Roberto Giordano, anche perché oggi mi è andata bene, diciamo, in una situazione un po' pericolosa. E comunque seguite ogni sera Effetto Notte dalle 21 alle 22, perché un giorno almeno non potrete dire io non lo sapevo, a proposito delle notizie più importanti che tra pochissimo vi ricordo. E poi cominciamo ad affrontare un altro tema, un tema che avrei voluto non trattare, pensavo davvero che facesse parte del passato, invece non è così. Ma questi sono i fatti comunque principali della giornata. La politica italiana, di cui abbiamo appena parlato, con lo scontro tra il presidente del Senato Grasso e il PD, intanto MDP punterebbe a una possibile alleanza con i 5 Stelle, che per il momento non sembrano molto favorevoli. Ostia, per il ballottaggio del 19 novembre è convocato il comitato di sicurezza con la procura antimafia e dopo l'aggressione ai giornalisti domani ci sarà la manifestazione contro le violenze. Brexit, adesso c'è la data per il divorzio, la Gran Bretagna sarà fuori dall'Unione Europea il 29 marzo 2019. Francia, a Tolosa, un uomo travolge degli studenti cinesi con la sua auto, 3 feriti, 2 gravi, l'arrestato ha detto agli agenti di essere in missione. Gli stupri di Rimini, condannato a 16 anni Butungo, il 20enne congolese accusato di aver stuprato, rapinato e picchiato sulla spiaggia di Miramare ad agosto una coppia di polacchi e una trans peruviana. Per il calcio è in corso la partita per i mondiali 2018 tra Svezia e Italia, poi ci aggiorneremo sui risultati. Ora invece parliamo di risultati che evidentemente fatti accaduti in passato non hanno dato, non hanno cambiato questi atti di grandissima civiltà, inciviltà e anche di criminalità. Perché? Perché tornano ad agire i criminali che lanciano i sassi sulle auto. Un'altra vittima innocente c'è stata nel milanese. Una donna di 62 anni, Nilde Caldarini, che ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale era a bordo, viaggiava con alcuni amici, è stata colpita da un sasso pesante 1 chilo lanciato da ignoti su una strada provinciale vicino a Cassano d'Adda. Nel milanese lei sedeva a fianco del conducente, gli altri sono rimasti illesi. Lei, per lo shock di questo sasso che ha colpito pesantemente il parabrezza e ha sfondato il parabrezza, è morta proprio per un malore. Pochi minuti dopo è stato inutile i tentativi di rianimarla. Ne parliamo con Giordano Biserni, presidente dell'Associazione Amici della Polizia Stradale. Buonasera Biserni. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Che da anni si occupa di sicurezza stradale, che ha un osservatorio specifico proprio, no? su questi temi. E mi sembra che non è soltanto questo un fatto isolato rispetto al passato. Ricordiamo quando avvenne a Tortona, vicino Alessandria, no? Quella giovane donna che era in macchina col marito, arrivò questo sasso dal cavalcavia e morì nell'incidente. Pensavamo che dopo quegli episodi, dopo che dovevano essere stati messi in sicurezza i vari cavalcavia, non si fosse più ripetuto un fatto del genere. Invece non è così, Biserni? Ma diciamo che dai primi anni 90 il fenomeno è diventato veramente drammatico, grave, con episodi, uno nel 93 sulla 22 del Brennero, dove una giovane signora venne uccisa. Poi ricordiamo i più importanti, la signora si chiamava Monica Zanotti. Poi io ricordo, perché all'epoca peraltro ero ancora operativo in servizio alla Polizia Stradale, quindi seguivo queste vicende da vicino, nel 96 la tragedia che ha ricordato Maria Letizia Berdini, in questo caso non mi pare sulla... Sì, Tortona, vicino a Tortona, aveva 21 anni, ricordo, e la sorella oggi è intervenuta, Maria Letizia, ha detto 20 anni sono passati, non sono serviti a nulla, non è servita a nulla la morte di mia sorella, ha detto amaramente. Gli episodi si sono anche ripetuti successivamente, diciamo che con una certa cadenza annuale e con altre mortalità purtroppo fino a verso il 2005. Poi è calato un certo silenzio ed è stato anche un bene, perché questo è un tipo di atteggiamento criminale che come devo dire, in qualche maniera può vedere riflessi l'emulazione come elemento anche scatenante, però non è che si sia mai sopito, come lei ha detto. Il nostro osservatorio dell'ASAP, uno dei 16 osservatori che noi curiamo, insieme a quello della pirateria stradale che voi conoscete bene, i contromano, gli sbirri picchiati, eccetera, certo. Curiamo anche questo, e devo dire che, già tanto per dare un po' i numeri, visto che nel 2017 noi abbiamo già monitorato 63 lanci di sassi o da cavalcavia o in prossimità di cavalcavia, 7 sulla rete autostradale e gli altri 56 sulla rete ordinaria, come il caso di quello di ieri sera. Sono rimaste ferite 4 persone. C'è una caratteristica che si ripete annualmente ed è questa, che in questi 63 episodi quando sono stati individuati gli autori, nei casi in cui sono stati individuati e sono frequenti, 18 episodi hanno visto coinvolti per esempio dei minori, quindi 30 minori, 18 episodi. Questo vuol dire che in molti casi i minori agiscono in gruppo, 2, 3, 4 anche alla volta. Solito branco, poi, no? Che fa rende ancora più vigliacci. Esatto, esatto. E poi 10 maggiorenni sono stati fermati o arrestati sempre nel 2017 e 4 feriti. Lo scorso anno, nel 2016, il nostro osservatorio dell'ASAF ha monitorato 85 episodi. 85 episodi in tutto l'anno, 5 sulla rete autostradale e 80 sulle statali. Anche in questo caso 4 persone ferite, quindi quest'anno purtroppo la situazione sarà destinata a peggiorare perché avevamo già 4 feriti alla fine di agosto, adesso ci aggiungeranno, non abbiamo ancora finito di monitorare e conteggiare gli episodi di settembre-ottobre, ma con questo di novembre si aggiunge una mortalità. Bene, l'anno scorso su appunto questi 85 episodi, in 33 episodi sono stati coinvolti 48 ragazzi sotto i 18 anni. Biserni, quindi questi sono dati tremendi, appunto, non ci pensavamo più, pensavamo che non fossero ormai cose che avevano lasciato il segno e quindi che non si ripetevano più, che si fosse imparato da quelle tragedie. Ma a livello di prevenzione, quindi a parte sui cavalcavia fare quelle specie di reti, no, ferrate per impedire di lanciare, ma per il resto cosa si può fare, Biserni? Allora, intanto per il resto cosa si è anche fatto, perché noi come ASAF ci impegniamo già, noi siamo nati come associazione nel 91, nel 96-97 ci schieriamo in maniera molto feroce su questo aspetto, perché erano anni drammatici, c'era da aver paura a passare veramente l'autostrada e noi sottolineiamo alcune esigenze. La prima è la portiamo a casa, nonostante che all'epoca venimmo sbertucciati perché insomma era una proposta assurda, ridicola, come quella della numerazione di cavalcavia, che vedete che sono numerati, perché io ricordo perfettamente quando ero in servizio che arrivava la chiamata al 113, all'epoca diceva ci sono persone sospette in un cavalcavia, dove? Fra Rimini e Imola, forse Bologna, ma fra Rimini e Imola di cavalcavia ce n'erano 40-45, quindi l'idea di numerarli, almeno per dare il numero di quello successivo, già era un elemento molto utile e ottenemmo questo risultato. Noi proponemmo ancora all'epoca, poi dopo andrò anche a quello che dice lei, all'epoca di monitorare i cavalcavia o i punti critici, comunque mettervi sotto osservazione con delle telecamere posizionate belle in alto, ma molte finte per non evitare spese notevoli e qualcuna vera, in modo che il soggetto che va in zona... Com'è andata, Biserni? Perché purtroppo dobbiamo sintetizzare adesso, quindi a livello di prevenzione adesso attualmente che cosa c'è, che cosa si fa? Attualmente, oltre a quello che noi abbiamo proposto, ci vuole una formazione, una educazione che spieghi la drammaticità di un evento a questi piccoli imbecilli, mi permetta, che non si rendono conto che un sasso di un chilo diventa un proiettile di tonnellate nello schianto contro una vettura, contro il parabrezza di una vettura, e può causare la morte di persone. Voglio ricordare che per la signora Verdini la prima condanna fu di 27 anni, in appello sesero a 18, ne ha scontati 12. Ecco, una parte ne hanno scontati 12, una parte ai domiciliari, una parte in galera. Ecco, il significato che va dato è che qua chi causa drammi di questo genere deve pagare un conto salatissimo. Giordano Biserni, infatti appunto, ricordo che le indagini adesso in questo caso sono condotte dalla compagnia di Cassano Dadda vicino Milano, e a seguito degli accertamenti in corso potrebbe anche configurarsi l'omicidio colposo, se non l'omicidio volontario. Speriamo che siano trovati e che la paghino veramente in modo pesante. Grazie Giordano Biserni, grazie a voi, buonanotte. Grazie, buonanotte, e c'è la viabilità, sì. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie più importanti, ve lo ricordate più volte, abbiamo parlato molto di politica italiana, dello scontro soprattutto tra Grasso e PD e possibile avvicinamento tra MDP e Movimento 5 Stelle. Per Ostia, per il ballottaggio del 19 novembre, convocato il Comitato di Sicurezza con la Procura Antimafia, Brexit, si è decisa la data del divorzio dall'Unione Europea da parte della Gran Bretagna, sarà il 29 marzo del 2019. Poi gli stupri di Rimini, condannato a 16 anni, Butungo, il ventenne congolese, l'unico maggiorenne del branco. E poi abbiamo appena parlato di questo ennesimo caso di crudeltà, di veramente di cattiveria senza coscienza, non sappiamo più come definirlo, di quello che è successo vicino Cassano Dadda, un nuovo lancio di un sasso su una macchina con una vittima. Adesso invece cerchiamo di alleggerirci con il nostro Paolo Corazzon di Trebimeteo. Caro Paolo, ma sì, buonasera, dacci buone notizie almeno tu. Ma... guarda, tutto sommato questo weekend non sarà così malvagio. Allora, fermo restando che ormai l'autunno è arrivato e ce lo teniamo, però domani avremo una giornata tutto sommato bella al centro-nord. Al sud un po' di variabilità ancora, ma con piogge un po' meno diffuse rispetto a oggi. Oggi al sud è stata una giornata a tratti anche davvero perturbata. Domani un pochino migliore, però ripeto, al sud ancora così e così. Domenica si parte benino in tutta Italia, poi verso sera, anzi già dal pomeriggio, al nord arrivano le nuvole, in serata anche delle piogge, però la perturbazione che arriverà in Italia lunedì, portando tra l'altro anche del freddo. Quindi, cara Roberta, prepariamoci settimana prossima a coprirci benino, che poi non sarà una brutta settimana, perché il tempo da martedì si rimette bene o male al bello, ma ci lascerà appunto in eredità aria più fredda, quindi settimana prossima si barbella, come si dice a Milano. Mi hai perturbata, mi hai perturbata. Grazie Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque sia. Ciao. Buon Paolo. Tempo a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Dario Ricci, a te ti perturba la partita? Come procede? Beh, insomma, intanto Paolo ci ha detto che lunedì sera a San Siro farà freschetto, quindi devo coprirmi bene. Grazie. Metti del col bacco, ricordi col bacco. Beh, sì. Col bacco, se andiamo in Russia ci sta proprio bene. L'aria che tira è ancora non definitiva in questo senso, perché siamo al 50° di gioco al Solna, ancora 0-0 tra Svezia e Italia, un'Italia che ha sofferto parecchio nel primo tempo, pur avendo avuto una buona occasione con Belotti all'inizio, come ricordavamo. Inizio di secondo tempo piuttosto vivace da parte degli azzurri, al 47° il cross di Candreva, il buco di Olsen, il portiere svedese, Kraft che devia in angolo, e proprio sull'azione d'angolo il destro dello stesso Candreva dal limite, questa volta bravo Olsen a salvare ancora in calcio d'angolo. Finora nessuna sostituzione, Roberta, anche se si stanno scandando Eder ed Immobile, è probabile che almeno uno dei due entri per dar fiato a qualcuno in avanti. 51° di gioco, ancora 0-0 tra Svezia e Italia. Dario, ti sei dimenticato di ricordare una cosa, però è che abbiamo lo speciale lunedì, certo. Lunedì sera, grande speciale, io lo chiamo effetto notte gol, però insomma speriamo di vederli al Milan San Siro e nella porta giusta questi gol. Ma dimmi una cosa, quindi se stasera, tu l'avrai già detto ma io l'ho presa da altre cose, se stasera non c'è un pareggio, l'Italia non fa gol, che succede? È come l'andata e ritorno nelle coppe europee, stasera dovesse finire 0-0, sarà decisiva la sfida di San Siro, in caso di 0-0 supplementari, poi rigori, in caso di pareggio con gol però si qualificherebbero gli svedesi, quindi al di là di quello che ha detto Corazzon sarebbe davvero una partita da brividi. Grazie Dario Ricci, poi ci ritroviamo lunedì allora, ma gli aggiornamenti anche nei GR che seguiranno per quanto riguarda la partita. Intanto vi ringrazio dei tanti messaggi per questa disavventura che mi è occorsa oggi, ringrazio Tonino, Jacopo, Clotilde, Lidia, Francesca, Maria, Francesco, invece sua Teresa, moltissimi, non riesco a nominarvi tutti, però sto leggendo uno per uno i messaggi. Grazie, ci ritroviamo brevemente come sempre alle 22, così vi ricordo i titoli principali.